24. La storia. Lampedusa, strage di migranti. Non volevamo partire, c'era brutto tempo, ma i trafficanti ci hanno costretti sotto la minaccia delle armi, stipandoci in più di 400 su 4 gommoni con 10 taniche di benzina, ma senza né cibo né acqua. Non è che con Mare Nostrum non si moriva e che adesso si muore. Mare Nostrum e Tritone sono due operazioni, l'una gestita più direttamente dall'Italia, l'altra dall'Europa, che però non risolveranno mai il problema finché noi non saremo in condizioni di risolvere il problema della Libia, da dove partono questi scafisti. Adesso Gheddafi non c'entra più, ma la Libia, il popolo libico e la Libia ci sono ancora. E il problema di questa relazione con l'Italia, di interessi non solo economici, ma anche di tanti interessi economici si pone, e credo che siamo abbastanza spiazzati. Riprendere il ruolo che avevamo prima non sarà semplice dopo questa guerra, perché sono cambiati i rapporti di forza. Italia e Libia, due paesi vicini, partner commerciali legati da una lunga storia di relazioni non sempre facili. Dopo la morte di Gheddafi, la Libia è piombata nel caos, stravolta da un'atroce guerra civile senza fine. Alcune settimane fa il capo dello Stato Islamico dell'ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, ha lanciato l'appello ai suoi perché andassero in Libia per far nascere anche a Tripoli il califfato. A Ginevra intanto l'ONU guida i negoziati tra milizie, islamisti, moderati, governi legittimi e paralleli. Questo scenario dalle tinte fosche rende ad altissimo rischio i rapporti con il nostro paese. Senza contare che la Libia è il principale porto da cui partono i barconi carichi di immigrati diretti in Italia che trovano la morte nei pressi delle nostre coste. Noi oggi a Mix24 nel nostro speciale proviamo a ricostruire la storia dei rapporti tra Libia e Italia. Una storia fatta di pagine buie, occupazione, campi di concentramento, ma anche di accordi diplomatici e tentativi di riappacificazione. È una storia che inizia all'inizio del Novecento. Tutto ha inizio il 3 ottobre del 1911. L'Italia di Giovanni Giolitti invade la Libia. Dopo un violento bombardamento nel porto di Tripoli da parte di incrociatori e corazzate italiane, inizia l'invasione. Il governo Giolitti è in crisi, come già aveva fatto il suo predecessore Francesco Crispi con la spedizione eritrea che nel 1896 aveva prodotto la sanguinosa sconfitta di Adua. Così anche Giolitti cerca di far dimenticare le accuse di corruzione al suo staff impegnandosi in una campagna coloniale. Ma questa campagna per Giolitti si rivela molto difficile. Il 23 ottobre del 1911 a Sharashat 600 bersaglieri vengono trucidati dai guerriglieri libici. E a questo punto l'esercito italiano reagisce in modo spietato. È l'inizio di un periodo di esecuzioni sommarie e di deportazioni. Le esecuzioni capitali, che sono durate 3 giorni e che hanno inviato da là oltre 1000 fedeli, erano indispensabili. Solo una generosa restituzione di uccisioni poteva stabilire nell'animo arabo la certezza della nostra forza. Il 26 ottobre del 1911 partono le navi con a bordo i primi 600 deportati. Alla fine i libici vengono deportati in Italia, saranno più di 5.000 a essere confinati a Ustica, a Ponza, alle Tremiti. Dopo la fallimentare e crudele esperienza di Giolitti, l'avventura coloniale dell'Italia riprende vigore qualche anno più tardi, quando al potere a Roma c'è Benito Mussolini. Sentiamo lo storico Nicola Labanca. Giolitti andò in Africa per diventare una grande potenza, per far vedere alle altre potenze europee che l'Italia era grande. Mussolini e l'Italia fascista andarono in Africa perché si sentivano una grande potenza. L'11 aprile del 1926, anno che lui stesso definisce l'anno napoleonico, Mussolini a bordo della corazzata Cavour giunge a Tripoli. È la prima visita nella colonia di un capo di governo. Mussolini, oltre a controllare di persona la situazione, vuole, grazie anche a una campagna di stampa imponente, portare l'attenzione degli italiani sull'oltremare, che non deve più essere trascurato. ma la conquista è lenta, lenta e dura. Le popolazioni nomadi sono difficili da controllare, sempre in movimento. Si decide allora di controllare il territorio, costruendo fortini avanzati, puntello per l'espansione e rifugio contro le razzie della resistenza. La stessa tattica utilizzata per sconfiggere i popoli indiani d'America. È in questo momento che comincia a farsi conoscere come condottiero Rodolfo Graziani. La sua fama, prima che in patria, si accresce attorno ai falò delle truppe libiche che così cantano. Se non ci conoscete, lo sanno gli altipiani. Noi siamo gli arditissimi del colonnel Graziani. Bom, bom, bom, al rombo del cannon. È a lui, a Rodolfo Graziani, il macellaio, come lo chiamano gli arabi, che Mussolini affida il compito di stroncare la resistenza libica. Ancora una volta, infatti, l'Italia si è trovata di fronte a una popolazione molto più agguerrita di quanto pensasse. E Graziani davanti a sé ha un avversario formidabile, Omar El Mukhtar, il leone del deserto. Mix 24, la storia. Su Mix 24 stiamo raccontando la storia dei rapporti tra Libia e Italia. La guerra è ormai palese, Mussolini a Roma è scontento. L'impegno finanziario profuso non è bastato a sedare la resistenza libica. Com'è possibile confrontarsi con le altre grandi potenze coloniali? Come poter immaginare di dar seguito al progetto di far diventare il Mediterraneo un lago interno se non si è in grado neppure di sconfiggere quei primitivi a dorso di cammelli puzzolenti? Mussolini dunque è fuori di sé. Non è possibile che l'Italia fascista non abbia la meglio su una popolazione di contadini nomadi. A questo punto siamo nel gennaio del 29, Mussolini nomina Pietro Badoglio governatore unico di Tripolitania e Cirenaica, cioè di tutta la Libia. E Badoglio si dimostra ancora più deciso e risoluto di Graziani. L'Italia deve assolutamente stroncare la resistenza libica e fare terra bruciata intorno a Omar El Mukhtar, il leone del deserto. Nel 1930 Badoglio scrive a Graziani: se il movimento di sottomissione dei ribelli non si accentuerà, si dovrà passare a una serie di provvedimenti più gravi, ossia riunire tutti i parenti dei ribelli in uno stretto e molto sorvegliato campo di concentramento, ove le loro condizioni siano piuttosto disagiate. Togliendo la popolazione, Omar El Mukhtar sarebbe rimasto solo, senza la possibilità di avere vitto e soprattutto di non poter più arruolare gente. Era lo storico Angelo Del Boca. Il 27 giugno comincia lo sgombero della popolazione nomade e seminomade della Cirenaica. In tutta la regione è stimata la presenza di 190.000 persone che possiedono all'incirca 1 milione di animali d'allevamento. 20.000 persone fuggono in Egitto, 60.000, quelle che vivono nei centri sulla costa, non vengono colpite dal provvedimento. Così come i 10-15.000 abitanti delle oasi all'interno, facilmente controllabili. Tutti gli altri, e stiamo parlando di circa 100.000 persone, vengono costrette ad abbandonare le tende, il bestiame e a trasferirsi con marce forzate lunghe anche 1.000 chilometri in alcuni campi di concentramento nella Sirtica, una delle regioni più inospitali dell'intera colonia. Così lo storico Habib El Eshawi. I campi di concentramento sono l'ultima soluzione tentata dagli italiani per fermare la resistenza in Cirenaica. Furono organizzati 13 campi di concentramento che non avevano nulla da invidiare ai campi di concentramento nazisti. In una lettera un condannato nel campo di concentramento di Sollum scrive: ci troviamo in una situazione incomparabile in tutti i secoli della storia. Il governo italiano fa tutto il possibile per eliminarci nel più breve tempo. La metà dei prigionieri nei campi di concentramento non sono tornati indietro. Sono morti lì dentro, soprattutto nel campo di Lelangheda. Allora in questa terra la vita non aveva nessun senso. Io considero i campi di concentramento come un vero e proprio genocidio. Gli storici libici, insomma, considerano quello commesso dagli italiani in Libia un vero e proprio genocidio. Eppure la Libia non è ancora del tutto conquistata. Il maresciallo Graziani non è riuscito a debellare l'ultima sacca di resistenza. L'oasi di Kufra, un territorio a 1800 km a sud del Mediterraneo. Così i testimoni sopravvissuti a quell'attacco italiano. Ho sentito che arrivavano gli aerei. Ero sdraiato a pancia sotto, accucciato, con il fucile imbracciato. Mi hanno sparato dall'alto e mi hanno ferito dietro al piede. Gli apparecchi riconoscono sul terreno le piste dei ribelli in fuga e le seguono finché giungono sopra gli uomini. Le bombe hanno poco effetto, ma le mitragliatrici fanno sempre buona caccia. Mirano a un uomo o a un gruppo di cammelli e li abbattono. Il gioco continua per 3 giorni fino alla distanza di 300 chilometri. Le carovane della salvezza diventano un cimitero di morti abbandonati che nessuno penserà mai a sotterrare. Arrivando a sud, ho assistito prima alla battaglia del Fara, poi all'attacco a Kufra. Per conquistare l'oasi, città santa della Senussia, ed evitare che i suoi uomini si uniscano ad Omar el-Mukhtar, l'aviazione la colpisce ripetutamente con esplosivi e gas, e poi ne insegue gli ultimi difensori e le loro famiglie nella fuga verso l'Egitto. Quando c'è stato l'attacco, noi siamo scappati di nuovo. Prima siamo arrivati all'oasi di Tazema, poi ci siamo spostati a Kufra, muovendoci di notte. Da Kufra siamo andati poi verso la Weinat, verso l'Egitto. Dei sopravvissuti, alcuni vagheranno nel deserto per più di 70 giorni, prima di essere avvistati e soccorsi da alcune pattuglie britanniche. I giornali del Cairo titolano: che cosa c'entra questo con la civiltà? Il maresciallo Graziani è sempre sulle tracce di Omar el-Mukhtar. Ma dopo la battaglia di Kufra, forse il leone del deserto è in trappola. L'11 settembre del 31, nell'ennesimo attacco contro i ribelli, il loro leggendario comandante viene colpito a un braccio e catturato. Così racconta il testimone Mohamed Boutalak. C'è stato un informatore che lavorava per gli italiani che ha detto: signori, Omar el-Mukhtar va ogni venerdì a pregare ad Al-Beida. Allora gli italiani sono andati a prenderlo. Hanno ucciso 4 mujahideen, hanno ferito Omar e l'hanno preso. A Sulluk, nel luogo dell'impiccagione di Omar el-Mukhtar, oggi c'è un mausoleo e alcuni vecchi che ancora ricordano. Hanno portato tanti uomini, donne e giovani per vederlo. I carabinieri controllavano tutto. Il 16 settembre del 31, nel campo di concentramento di Solution, di fronte agli sguardi attoniti di 20.000 suoi connazionali, Omar el-Mukhtar conclude la sua vita terrena sul patibolo. Con l'arresto e l'esecuzione del leone del deserto, la conquista della Libia è definitiva. A questo punto, finita la fase della battaglia e della conquista, è arrivato il momento di costruire la Libia italiana. Al posto di Pietro Badoglio nel 1934, Benito Mussolini nomina governatore della Libia Italo Balbo. Così lo storico Giorgio Rosciano. È un governatore relativamente moderno, ha una idea degli arabi più moderna. Gli arabi sono sudditi, ma di un certo livello, di un certo rispetto, non bestie come per molti suoi predecessori. Italo Balbo si trova ad eseguire un compito diverso e per molti aspetti più facile dei suoi predecessori. Dopo distruzione e conquista si tratta infatti ora di ricostruire. Il primo impegno è quello di continuare l'inesorabile trasformazione di Tripoli in una città italiana. Così ce ne parlano gli storici Salvatore Bono e Angelo Del Boca. Noi vivevamo con scarso rapporto con l'insieme della popolazione araba. Quando gli italiani dicono: ma noi andavamo d'accordo, ma noi stavamo bene, eravamo amici, questo è vero per una certa epoca e con una certa molto ristretta elite sociale. Si ha questo mito dell'italiano bravo, italiani brava gente, che tutto sommato sì, sono andati in Libia, in Somalia, in Eritrea, in Etiopia, ma in fondo non tanto per arricchirsi, ma anche per portare la civiltà. Nella realtà gli italiani furono come gli altri europei quando si espandevano. Era lo storico Nicola Labanca. Balbo è il governatore perfetto per la Libia colonizzata, un vero e proprio viceré, sempre in alta uniforme con guardie del corpo personali. così lo storico Salah Suri. Balbo ha tutto, ha il potere, ha i soldi, ha un contatto diretto con Mussolini. Mussolini gli chiede la costruzione di una strada litoranea lunga quasi 2000 chilometri. È in via d'ultimazione la litoranea libica, vitale arteria per lo sviluppo agricolo, commerciale e turistico della colonia, che mette in comunicazione la Tunisia con l'Egitto attraverso il litorale libico. Non avevo mai visto una strada asfaltata in vita mia. Non capivo neppure a cosa potesse servire. La nuova strada permette l'intero percorso automobilistico dell'Africa mediterranea, dall'Atlantico al Nilo. Costa 103 milioni di lire. Viene costruita in 12 mesi. La paga di un manovale locale è di 6 lire, mentre quella di un manovale italiano di 18. Il Duce giunge in volo a Taorga. Tra il 10 e il 22 marzo 1937 si svolge il secondo viaggio in terra d'Africa del Duce. Nel mattino purissimo si compie la cerimonia del 12 viene inaugurato un primo tratto di litoranea. Intanto Tripoli si prepara per la visita a lungo attesa. Dense colonne di indigeni affluiscono verso il centro della città, partendo dai villaggi e dalle case, cantando e invocando il nome del Duce. Gli italiani di Tripoli da ore e ore hanno gremito Piazza Castello e le tribune nell'alta torre metallica. Per Mussolini, insomma, il successo sembra definitivo. La Libia per gli italiani è la nuova terra promessa, ricca di opportunità tutte da esplorare. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Con Italo Balbo, Mussolini a questo punto passa alla fase successiva, quella dell'insediamento dei coloni italiani nei villaggi costruiti appositamente per loro. Sentiamo lo storico Angelo Del Bocca. Avevano le loro case, la loro chiesa, la loro piazza con il municipio, la casa del fascio naturalmente, ed avevano un po' di bestiame, un po' di sementi, in modo da cominciare subito la loro attività. Costruite le fattorie, bisogna ora assegnarle. Così lo storico Giorgio Rosciato. Famiglie di contadini poveri, iscritti al partito, il padre deve aver fatto la prima guerra mondiale, deve avere una moglie e dei figli in età adulta, sono famiglie di 7, 8, 10 persone. La selezione premia maggiormente i contadini del nord-est. Il piano studiato da Balbo prevede che ogni anno e per 5 anni, alla scadenza del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, partano contemporaneamente 20.000 coloni. Migliaia e migliaia di persone. Questo paese nuovo, io non avevo mai visto le palme, questi arabi con questi barracani. Destinati ad ospitare 616 famiglie rurali. I coloni non credono ai loro occhi. Un villaggio bello perché ce l'ho ancora visivo, perché le case erano tutte dipinte, tutte bianche, era tutto questo color bianco che mi rimane ancora sempre impresso. C'era la chiesa, c'era la scuola, al mercoledì al centro c'era una grande piazza fatta tutta d'archi ed era una piazza dove il mercoledì si svolgeva il mercato. Ci hanno fatto di tutto, ci hanno cacciato, hanno preso la nostra terra e il nostro bestiame. Vivevamo nella nostra terra e ce l'hanno rubata. Una nuova grandiosa opera del regime in Libia, Fiorita, primo villaggio agricolo musulmano. Sua Eccellenza Balbo ha proceduto alla consegna delle chiavi delle case coloniche a numerosi agricoltori musulmani. Alla fine di questa esperienza, cioè nel 1940, ahimè, i coloni ormai erano sui 100.000 ed avevano una trentina di villaggi e gli arabi avevano due o tre villaggi. 1.200 famiglie italiane in questa zona tutta che c'hanno il Buderi, ecco, e in quel momento loro si stanno bene tranquillamente, ecco, tutti c'hanno il Buderi, 12 ettari, 14 ettari, 15 ettari, 20, e lavorano e sta tranquillamente. Solo che, scusi, io dici una questa parola ma mi vergogna, solo che loro non c'è una politica come gli inglesi, per dire, ecco, scusi, gli inglesi più politicanti degli italiani non rispettano i locali che sono qui, mai rispettato, scusi, lavorano per niente, per quattro soldi, per niente. Abbiamo sentito voci di coloni italiani che abitarono quelle terre e voci di libici. ma gli italiani nel ricordo dei libici forse furono tutt'altro che brava gente. E in ogni caso il sogno coloniale di Mussolini ha una vita breve. Il 10 giugno del 40 l'Italia dichiara guerra alla Francia e all'Inghilterra e l'Inghilterra dall'Egitto comincia a bombardare le postazioni italiane in Libia. Nei primi 18 giorni di guerra, mentre l'aviazione britannica bombarda senza sosta le postazioni e le città principali, l'artiglieria italiana e la contraerea di Marina riescono ad abbattere un solo aereo. È però l'aereo italiano di Balbo. Il suo aereo brucia ancora nel porto di Tobruk, che da Roma arriva a sostituirlo il generale della Riconquista, Rodolfo Graziani. Non aspettando rinforzi, Graziani il 13 settembre attraversa la frontiera con l'Egitto ed espugna Sid El Barrani. L'8 settembre del 1940 ad Alessandria d'Egitto sbarcano i soldati inglesi del Commonwealth. Graziani neanche sospetta del loro arrivo e dei loro mezzi corazzati. Ma un conto è combattere contro manipoli di ribelli, un altro è affrontare l'esercito imperiale britannico. Il 9 dicembre del 1940 gli inglesi attaccano. In pochi minuti restano sul terreno 1300 italiani. Le autoblindo corazzate tagliano in due le nostre linee. Lo stesso generale Maletti, capo del raggruppamento libico, viene sorpreso fuori dalla sua tenda in pigiama con la pistola in pugno. Viene falciato dal fuoco dei carri nemici. Noi abbiamo 200.000 uomini armati in modo prima guerra mondiale, truppe appiedate. Gli inglesi ne hanno 36.000 motorizzati e comandanti più efficaci. Fanno fuori in tre mesi le nostre truppe, facendo 130.000 prigionieri e mettendo tutto il resto in rotta. Diciamo che è la pagina più vergognosa della nostra seconda guerra mondiale. Avete sentito ancora lo storico Giorgio Rochat? Di fronte a questa disfatta, Mussolini chiede un aiuto militare a Hitler. Intanto il governo di Roma provvede anche a far sfollare dalla Libia i figli degli italiani, mandati in Italia. Così raccontano quel momento Giovanni Spinelli e Rosario Moccero. Alla fine di maggio a tutti noi ragazzini che andavamo a scuola ci fu dato un modulo per fare la richiesta per andare alle colonie estive. I miei genitori mandarono me e le mie sorelle nelle colonie in Italia in attesa che poi finisse la guerra lampo si diceva. Invece passarono 6 anni. Figli di quei 20.000 coloni che da tutte le parti d'Italia mossero verso le terre d'oltremare ad incidere profondamente nel solco il segno della romanità, oggi, mentre i padri scrivono la nuova storia con l'aratro e il moschetto e le madri sono in trepida attesa nelle case dell'assolato Jebel, essi, amorosamente accolti in colonie sparse per tutta l'Italia, vivono in serenità la loro giornata di studio, di lavoro e di spensierati giochi. E io ho sempre avuto dei brutti ricordi lì, anzi, dei trauma si può dire. A voi che siete laggiù tra le palme e le sabbie della Libia, nei campi coltivati e resi fecondi con la vostra tenacia di italiani. Io scappavo sempre perché io volevo scappare. E le vostre bianche cadette. Non ero il tipo da stare in un collegio, ecco. Alla fine di ottobre del 42, la battaglia di El Alamein, l'inizio della fine. E ad El Alamein è davvero l'inizio della fine. Sbaragliati tedeschi e italiani al confine tra Egitto e Tripolitania, gli inglesi arrivano anche in Libia. Per l'Italia il sogno coloniale, insomma, è finito. Il 20 gennaio del 43 l'esercito italo-tedesco abbandona definitivamente Tripoli, che rimane terra di nessuno per 2 giorni. Il 23 gennaio le truppe del generale Montgomery entrano in città. La Libia non è più italiana, così lo storico Nicola Labanca. Le colonie italiane, a differenza di quelle delle altre potenze europee, non furono perse in un lungo e doloroso processo di decolonizzazione. Lungo, doloroso, ma fruttuoso per le opinioni pubbliche, perché furono costrette a ripensare in tempi nuovi quelle colonie che avevano conquistate in tempi lontani. L'Italia non ebbe questa sfortuna o fortuna, perse le colonie perdendo il regime fascista, la guerra. Gli Stati Uniti suggeriscono la spartizione in tre parti della Libia. Il Fezzan alla Francia, la Tripolitania all'Italia e la Cirenaica nella zona di influenza inglese attraverso un emirato amico. Gli inglesi però non vogliono assolutamente che l'Italia rientri in Libia. Ma perché dopo la guerra gli inglesi non volevano che anche l'Italia partecipasse alla spartizione della Libia? Forse non volevano perché sapevano già di una straordinaria scoperta fatta proprio da un italiano, da Ardito Desio. La scoperta era quella del petrolio. È lo stesso Ardito Desio che racconta in una sua intervista. In quell'epoca mi occupavo di cercare l'acqua nel sottosuolo della Libia. A un certo momento, insieme con l'acqua, ho visto delle macchioline nere. Mi sono domandato cosa sono. C'avevo delle cartine da sigarette, ho visto che si ungevano invece che si bagnavano. Allora ho capito che non era acqua, ma c'era anche del petrolio. Ma per estrarre quel petrolio servono le trivelle. Negli anni 30 le trivelle le hanno solo gli americani. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quando si tratta di decidere le sorti della Libia, l'Italia è tra i paesi sconfitti. Quindi non può accampare nessuna rivendicazione sulla Libia. La Libia e il suo petrolio avranno un altro destino. Il 21 novembre 1949 l'Assemblea Generale dell'ONU approva una risoluzione che raccomanda la creazione in Libia di uno Stato indipendente guidato dai Senussiti e quindi nella sfera di influenza inglese. Il 7 ottobre 1951 l'Assemblea Nazionale Libica approva la costituzione del nuovo Regno della Libia di forma federale e a regime parlamentare. Re del nuovo Stato diviene Mohammed Idris. Chi erano gli italiani rimasti in Libia? Senza un processo di decolonizzazione, erano rimasti in Libia una parte dei grandi concessionari terrieri, ma anche una parte dei piccoli italiani. I francesi hanno un termine, petit blanc, piccoli bianchi. Gli italiani erano i proprietari delle terre. Avevano ottenuto i contratti grazie agli accordi con il governo coloniale fascista e rimasero i padroni delle fattorie. I libici erano solo i lavoratori di queste terre. Per i proprietari terrieri italiani e per i libici che lavorano sotto di loro, tutto sommato sembra essere rimasto tutto come al tempo del fascismo. Ma poi d'improvviso cambia tutto. È il 1 settembre del 69. È il giorno del colpo di Stato in Libia. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. È il 1 settembre del 69. È il giorno del colpo di Stato in Libia. Alle 2:30 del mattino un gruppo di giovani ufficiali dissidenti verso la monarchia senussita fa scattare l'operazione Gerusalemme. Gli ufficiali liberi si impadroniscono senza nessuno spargimento di sangue di tutti i nodi nevralgici del paese. Alle 7 è già tutto finito. Alla radio parla uno sconosciuto capitano di 27 anni, figlio di beduini del deserto sirtico, Muammar Gheddafi. Proclama la nascita della Repubblica Araba Libica. Ad ottobre si ritira il contingente inglese, a marzo viene chiusa la base americana di Willows Field, all'inizio dell'estate del 1970 i primi proclami di Gheddafi contro gli italiani e la loro storia d'occupazione. E da quei proclami Gheddafi arriverà a una decisione clamorosa, l'esproprio di tutti i beni degli italiani in Libia e poi addirittura la loro espulsione, è il 21 luglio del 70. Adesso quei coloni sono diventati profughi. Così si conclude quella pagina buia della storia dei rapporti tra Italia e Libia. Poi un lento cammino verso la riappacificazione, guidato e voluto soprattutto da due leader italiani, Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Ascoltiamo Gheddafi, cosa ci diceva in un'intervista nel 2004 realizzata a Tripoli. Berlusconi è stato il primo leader occidentale che lei ha incontrato dopo la fine dell'embargo. Ecco, perché proprio Berlusconi per primo? Libia e Italia ora sono paesi amici, sono vicini e dirimpettai sul Mediterraneo. I nostri rapporti sono molto buoni. E anche i governi che hanno preceduto il nostro amico Berlusconi hanno compiuto degli sforzi enormi in ambito internazionale a favore della causa libica. Era perciò nostro dovere accogliere e dare il benvenuto al presidente del governo italiano e ringraziarlo per la posizione dell'Italia a fianco di una causa giusta, quella libica. È il segno di una nuova era di rapporti fra Italia e Libia, questa? Certamente. Ma è vero che esiste a livello internazionale un po' di invidia per questo rapporto privilegiato fra Italia e Libia? Certo. E soprattutto da parte di chi? Da tutte le parti. Ma nel protocollo diplomatico dei rapporti tra Italia e Libia, un altro protagonista d'eccezione è stato Romano Prodi. Che ruolo ha avuto Prodi nella vicenda del riavvicinamento della Libia alla comunità internazionale? Senza dubbio Prodi ha giocato un ruolo molto importante. Noi libici lo ringraziamo e apprezziamo molto questo suo ruolo. La sua posizione nella commissione è stata molto importante perché era utile anche alla causa libica. Ma è per lei personalmente Prodi cosa rappresenta? Senza dubbio è un amico, un caro amico. Ci capiamo molto. Amicizia dunque tra i leader sia con Prodi che Berlusconi, a sancire una volta per tutte l'interesse dei governi italiani a chiudere con un passato da dimenticare. Ma non solo amicizia, anche incontri, vertici, schermaglie, rivendicazioni. 11 ottobre 2004, Gheddafi promette lotta dura contro gli integralisti di Al-Qaeda e risarcisce i familiari delle vittime della strage di Lockerbie. È il segnale che Romano Prodi, presidente della Commissione europea, aspetta da tempo. L'Europa revoca l'embargo. È la prima svolta. Ancora incontri, clamorose sconfessioni, ancora trattative. Bengasi, 30 agosto 2008. I rappresentanti di Italia e Libia, Berlusconi e Gheddafi, firmano l'accordo di amicizia, partenariato e cooperazione. I punti salienti del trattato sono: realizzazione di infrastrutture, impegno comune nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e soprattutto all'immigrazione clandestina, accordi di ricerca scientifica, di cooperazione soprattutto per gli italiani scacciati dalla Libia nel 1970, indennizzi e visti. Poi ancora le scuse ufficiali, così Gheddafi nel 2004. La condizione è di liquidare il passato, chiudere questo dossier. Insomma, dipende dalla chiusura del fascicolo della colonizzazione italiana della Libia e dall'attuazione della dichiarazione concordata dai due paesi per chiudere questa pagina. Voglio dire, non potrò visitare l'Italia se il popolo libico non applaudirà a questa visita. Il popolo italiano oggi potrebbe già applaudire, ma io per la mia visita voglio l'applauso di entrambi i popoli. Insieme, tutti e due insieme. E quell'applauso c'è stato. Il 3 marzo del 2009 il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi chiede scusa di fronte al Congresso Generale del Popolo Libico, che reagisce con un boato alle parole del Presidente Berlusconi. Accettiamo le scuse dell'Italia, dice Gheddafi. Il 10 giugno del 2009 Gheddafi si reca per la prima volta in Italia in visita di Stato. Resta 3 giorni fra molte polemiche e contestazioni. Poi la storia più recente, deserto del Sirte, il 20 ottobre del 2011. Gheddafi viene catturato e ucciso e la sua morte sarà ripresa in immagini che fanno il giro del mondo. Amedeo Ricucci, appena rientrato dalla Libia per il TG1, è vero, ha ragione Renzi che il problema dell'immigrazione, o meglio dei cadaveri che arrivano sulle nostre coste alla mercé di trafficanti di uomini, è la Libia? Beh sì, penso che abbia completamente ragione. Noi ci siamo occupati per un anno e mezzo degli aspetti umanitari, come era giusto che si facesse, abbiamo salvato vite umane, il problema però resta, e resta perché la Libia è incapace e non ha alcuna voglia di affrontare e di risolvere il problema dei migranti, dell'immigrazione clandestina. È alla radice, quindi, ma come avvengono le partenze? Ma guarda, le partenze avvengono nella maniera più caotica possibile, soprattutto in questo periodo in cui il contesto libico è cambiato, è precipitata la situazione in Libia negli ultimi 6 mesi, è esplosa completamente. Ci sono 2 governi in Libia, 2 parlamenti e 2 grossi schieramenti di milizie armate che si contendono il potere, i migranti che sono in Libia adesso nessuno li blocca quando provano a partire, nel senso che i guardiacoste libici hanno altro a cui pensare in questo periodo. Non c'è alcun controllo del territorio? Il controllo del territorio è ferreo, totale, ma è in mano alle milizie armate che si combattono fra di loro. Le milizie spesso sono implicate nel traffico, nella tratta di esseri umani. Questi ultimi gommoni partiti dalla zona di Garabullis, che è una zona, diciamo, che sta sulla costa est di Tripoli, fra Tripoli e Misurata, quella è una zona controllata comunque dalle milizie, quindi è abbastanza difficile immaginare che i trafficanti possano muoversi su quel tratto di costa senza avere rapporti, senza pagare il pizzo, mettiamolo così, alle milizie armate. Amedeo Ricucci, ma oggi chi governa in Libia? In Libia non governa nessuno. Io sono stato a Tripoli, dove non c'è neanche una parvenza di autorità. A Tripoli c'è un governo che fa capo a un governo che è quello venuto fuori dalle prime elezioni, quelle di 2 anni fa. Questo governo ha prorogato in maniera illegittima il suo mandato, ci sono state nonostante questo altre elezioni da cui è nato un secondo governo che però sta in esilio a Tobruk, cioè in Cirenaica. Fra i due ci si spara tutti i giorni, soprattutto attorno ai pozzi di petrolio e ai terminali petroliferi. In mano a chi sono? I pozzi sono gestiti dalle compagnie petrolifere, per esempio un terminale petrolifero tra Tripoli e la frontiera tunisina, che è il terminale petrolifero che è usato dall'ENI e da dove parte il gasdotto che arriva a Gela in Italia, quindi la cosa più importante per noi italiani. L'impianto è dell'ENI, però la sicurezza attorno all'impianto e all'interno dell'impianto prima veniva garantita dal governo libico ai tempi di Gheddafi. Dopo la caduta di Gheddafi si sono succedute varie milizie, perché comunque lì sono in ballo contratti miliardari per assicurare la sicurezza di un impianto, tu ti fai pagare certo, fior di quattrini, e quindi si combatte per diventare i guardiani dei pozzi, mettiamola così. E l'arma di ricatto è bloccare i pozzi, anche per questo non si muove l'Occidente, nel senso che l'Occidente ha bisogno di avere il beneplacito delle autorità libiche, qualunque esse siano, per evitare che vengano chiusi i rubinetti. Non è poco. No, quella è la cosa più importante che c'è per noi lì. Tutto il resto è una scatola di sabbia, come diceva Giolitti. Amedeo Ricucci, ma un intervento diretto in Libia, di cui parla velatamente Renzi, è nell'aria? Di un intervento diretto in Libia si parla ormai da tempo, diciamo da almeno un anno, e soprattutto a partire da luglio, quando è scoppiata questa nuova fase caotica della guerra. Ma c'è una reale possibilità? Questa reale possibilità ovviamente va subordinata comunque all'accettazione da parte di uno o dei due governi libici. Sono in corso da settimane colloqui a Ginevra, patrocinati dalle Nazioni Unite e da un gruppo che ha come capofila l'Italia, grazie al lavoro eccezionale che sta facendo l'ambasciata italiana a Tripoli. Ricordiamo che l'Italia è l'unico paese che ha mantenuto e mantiene tuttora la propria ambasciata aperta in Libia. Tutti gli altri hanno evacuato il proprio personale, non c'è più un occidentale diplomatico in Libia. L'Italia, dicevo, sta mediando e si sta cercando di ipotizzare anche la possibilità di un corpo di peacekeeping. Il problema è che la pace bisogna mantenerla, peacekeeping vuol dire mantenimento della pace. Se non fanno la pace i contendenti in Libia è un po' difficile che possa arrivare un contingente internazionale. Al-Baghdadi, capo dell'IS, alcune settimane fa aveva lanciato l'appello ai suoi di andare in Libia per far nascere anche a Tripoli il califfato. C'è il rischio che possa accadere una cosa del genere? È già accaduta, nel senso che il califfato c'è in Libia, non si è insediato a Tripoli, bensì si è insediato a Derna, che è una città della Cirenaica, quasi al confine con l'Egitto. In ottobre i miliziani dell'ISIS, quelli di ritorno, dalla Siria e dall'Iraq hanno preso il controllo di questa città, che è una città che ha un grosso passato di radicalismo islamico, era già in mano ad Al-Qaeda. Da ottobre, dopo una battaglia durata giorni, i miliziani dell'ISIS hanno sconfitto i miliziani di Al-Qaeda, quindi tutto all'interno dell'universo terroristico islamico. Le bandiere dell'ISIS sono state issate su tutti gli edifici pubblici di Derna. Da Derna l'ISIS ha cominciato pian piano ad espandersi, sta cercando di assumere il controllo anche delle milizie islamiste che combattono a Bengasi. Ma quanto è grande? Possiamo avere degli ordini di grandezza? L'ISIS a Derna può contare su migliaia, qualche migliaio di miliziani. Si calcola che 400-500 erano i miliziani che sono andati a combattere dalla Libia in Siria e in Iraq. Il grosso di questi è rientrato in Libia, quindi parliamo di 400-500 miliziani, ai quali bisogna aggiungere i miliziani di Al-Qaeda che già si stavano nella zona Cirenaica e quindi nell'est della Libia. Quindi parliamo di diverse migliaia di miliziani armati fino ai denti, perché non dimentichiamoci che gli arsenali di Gheddafi sono stati svuotati e parliamo di armi pesanti, non di Kalashnikov, quindi è un gruppo molto pericoloso. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.